Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 21. Mi ci vollero mesi per ritornare in qualche modo alla realtà. Fui ospite dei Gerald, che avevo conosciuto nella sede degli IWW e che furono molto gentili con me. A poco recuperai la salute e le forze. Non mi ero resa conto di quanto fossi caduta in preda dell'alcol. Un giorno, quasi 12 mesi dopo la morte di Jordan, mi sorpresi a pensare alle donne che avevo conosciuto sulla strada. Mi rammentai di Andrew Nelson, che avevo conosciuto a New York e che mi aveva offerto un impiego in un centro di ricerca sociale. Improvvisamente ebbi voglia di lavorare tra le donne per le donne. Il viaggio fu facile. Andai in autostop fino a Chicago e arrivai giusto in tempo per partecipare alla grande marcia degli affamati che si tenne il 24 novembre del 1934, un sabato. Harry Hopkins era giunto in città per incontrarsi con tutti i responsabili dei centri di assistenza all'Hotel Stevens. La Emergency Relief Commission dello Stato dell'Illinois aveva appena approvato un insostenibile taglio dei fondi per l'assistenza pubblica. La prima sera a Chicago alloggiai nel ricovero Mary Dowers, dove ci diedero da mangiare, ci consentirono di lavare i panni e ci fornirono un elenco di posti in cui avremmo potuto cercare lavoro. Il ricovero era sovraffollato, le stanze erano squallide e sporche, le donne quasi tutte di mezza età, deperite e sfiduciate. Mi venne una gran voglia di aiutarle, ma ero ancora troppo scombussolata per fare progetti. Prima di tutto volevo rivedere Chicago, il profilo del grattacieli e il lago. Per caso capitai in Michigan Avenue, proprio nel bel mezzo della manifestazione. Che spettacolo! Per chilometri e chilometri uomini e donne marciavano fianco a fianco, in file di 20 o 25, inalberando striscioni, intonando canti, con lo sguardo deciso e i vestiti logori e cascanti. Un profondo malessere si impadronì di me. Vidi striscioni del Comitato Operaio contro la Disoccupazione di Chicago, del Comitato per l'Assistenza ai Disoccupati dell'American Federation of Labor, della Federazione per l'Assistenza Fraterna Organizzata per l'Assistenza Sociale, della Federazione degli Architetti, Ingegneri, Chimici e Tecnici, dell'Associazione Interprofessionale per l'Assistenza Sociale, della Federazione dei Piccoli Proprietari di Immobili e Terreni dell'Illinois, del Comitato dei Disoccupati della Contea di Cook, della Federazione dei Sindacati Operai Ebrei, del Consiglio Generale Americano dei Mestieri, della Federazione dei Dipendenti del Servizio Sociale e dell'Alleanza dei Lavoratori Polacchi. Udii scandire slogan contro la discriminazione, contro l'odio razziale, contro l'incarcerazione di Tom Mooney. Udii alcuni protestare perché i disoccupati erano costretti a lavorare due giorni alla settimana per 50 centesimi e ad alloggiare in sordide pensioni di infima categoria, e sentii chiedere a gran voce sussidi economici, un programma di lavori pubblici con impieghi e salari sindacali, e poi vestiti, coperte e carbone. C'erano anche molte donne nel corteo, anzi la metà dei dimostranti erano donne, donne sole, vecchie e giovani, robuste e claudicanti, donne con i bambini a fianco, donne che marciavano unite dalla comune prospettiva di dover affrontare l'inverno senza un lavoro o un'assistenza adeguata. Erano come un fiume senza fine, una grande macchia scura e grigia che si spandeva sul liscio asfalto del Michigan Boulevard. Insieme a centinaia di altre persone seguì il corteo camminando sul marciapiede, presa da quel ritmo lento e pesante, unendo inconsciamente il mio fardello a loro. I marciapiedi camminavano di gran passo con la strada. Sfilammo davanti al Chicago Athletic Club, davanti all'Hotel Congress e all'Hotel Auditorium, dai quali i portieri facevano uscire uomini e donne in abiti eleganti, sazi di cibi e liquori prelibati che si bloccavano allarmati e facevano un passo indietro. E dai portoni delle case di lusso uscivano i ricchi con il terrore dipinto del volto. Intanto, giù sul marciapiede in strada, facevo ormai parte di quel fiume solido che a file di 20 o 30 marciavano senza sosta, tanto che a un certo punto fui sopraffatta da una sorda, ma netta ed esaltante sensazione di potenza. Mi misi in fila dietro lo striscione dell'Unemployment Council numero 1. Fu una giornata indimenticabile, una giornata che produsse molti cambiamenti nelle procedure per l'assistenza pubblica, soprattutto per quanto concerne i vagabondi, come ho avuto modo di constatare in questi ultimi mesi. Continuai il mio viaggio in autostop verso est, fermandovi di proposito nei ricoveri, e scoprii che un vero e proprio esercito di donne si era messo sulla strada. Per lo più erano donne giovani, allegre e spregiudicate, sicure che il loro sesso le avrebbe aiutate a cavarsela, troppo irrequiete per mettere radici da qualche parte. Le loro storie si somigliavano tutte. Niente lavoro, una famiglia disastrata, nessuna prospettiva di matrimonio, tanta voglia di divertirsi, di libertà sessuale, di vita e la curiosità di sapere quello che altre donne stavano facendo. Consideravano l'alloggio nei ricoveri un loro diritto. Se necessario, mentivano. Raccontavano di sé quello che meglio serviva ai loro scopi. Da Chicago fino oltre Gary viaggiai con un camionista che mi aveva raccolto in una stazione di servizio al termine della manifestazione. Un altro camionista mi portò fino a Toledo, nell'Ohio. Avevo pochissimi soldi, perciò lasciai che il camionista facesse il galante e mi pagasse da mangiare. A Toledo mi fermai 2 giorni in un ricovero, dove mi ripulii e parlai un po' con le donne. Ricordo una ragazza che si chiamava Skip Penny. Non aveva più di 15 anni, si vantava di aver soggiornato in tutti i ricoveri tra El Paso e Toledo. Era piccola, paffuta, con i capelli neri, i seni grossi e la pelle rovinata dai foruncoli. Rideva in continuazione e sembrava provare un gran piacere nel raccontare come fregava gli assistenti sociali. «Mi beccano sempre perché sono minorenne», mi disse, «e cercano di mettermi in contatto con i miei. Mi rivestono sempre da capo a piedi. Io do ogni volta un nome e un indirizzo diversi. E prima che ottengano una risposta, taglio la corda». A Chicago non si era fidata ad alloggiare nei ricoveri perché a Kansas City aveva sentito dire che alcune ragazze erano finite in prigione per aver avuto a che fare con l'ufficio assistenza di Chicago. Ma quando era arrivata nella grande città aveva scoperto di essere al verde e si era confidata con un tassista dall'aria amichevole. Questi l'aveva presentata a suo fratello che l'aveva sedotta. L'uomo era un magnaccia e le aveva trasmesso la gonorrea. L'aveva portata da un medico perché si curasse e aveva espresso l'intenzione di mandarla a battere in un bordello, ma lei se l'era filata non appena il dottore le aveva detto che gli esami risultavano negativi. Quando lasciai Toledo, trovai un passaggio da una coppia anziana che viaggiava con un cane e così arrivai fino a Erie. Nel ricovero di quella città conobbi altre 2 minorenni che avevano mentito sulla loro età e avevano dato nomi falsi. Il mattino, quando me ne andai, una delle due stava piangendo perché Di notte la sovrintendente le aveva frugato nella borsetta e aveva trovato una lettera di sua madre che stava in Alabama. Perciò aveva avvertito telegraficamente le autorità di quello stato. «La mia famiglia vive con i soldi dell'assistenza e non me ne tirerò fuori mai più se mi rimandano laggiù», si lamentava, ma la rimandarono indietro ugualmente. Nei pressi di Westfield, nello stato di New York, mi fermai in un campo per turisti. Poi ottenni un passaggio da un intermediario della compravendita di legname. Poi un vecchietto su una Ford che cadeva a pezzi mi portò fino a Jamestown. Un ispettore della rete distributiva di un giornale mi diede uno strappo fino a Steamville e mi invitò a pranzo. Non dovetti aspettare mai molto tra un passaggio e un altro. Gli uomini si fermavano sempre a raccogliere le donne che fanno l'autostop. La tappa successiva fu Olean, dove mi condusse un tale che aveva appena concluso un affare immobiliare a Salamanca. Mi fece delle proposte, ma non se la prese quando rifiutai, anzi mi comprò due pacchetti di sigarette. Dopo di lui mi caricarono due italiani che viaggiavano su una Dodge e fu un incontro particolarmente fortunato. Sedetti dietro, in mezzo alle verdure destinate ad alcuni parenti che abitavano a Jersey City, vicino alla Holland Tunnel per New York. Così, mezz'ora dopo, telefonai ad Andrew Nelson e potei andare quasi subito a lavorare con lui. Dovevo maneggiare statistiche e suddividere e classificare le informazioni relative alle varie persone intervistate. Se lavori con le statistiche, nessuno va a controllare la tua fedina penale, mi disse. Puoi tenerti questo impiego tutto il tempo che vuoi. Il nuovo lavoro mi assorbì completamente, non ebbi più il tempo di pensare a me stessa. Per anni avevo conosciuto donne e uomini sulla strada, avevo osservato i criminali e i disoccupati e avevo condiviso le loro sensazioni. Ora imparavo qualcosa su di loro, avevo dati e cifre su cui basarmi. Nel periodo di Natale il signor Nelson stava elaborando, dal punto di vista statistico, i dati di una ricerca federale sui vagabondi e mi permise di aiutarlo. In febbraio disponemmo dei dati raccolti nel corso di una indagine speciale condotta in 13 importanti centri di passaggio di vagabondi, dalla quale risultava che il 95% degli individui che nell'arco di 3 mesi erano stati oggetto della ricerca si potevano considerare manodopera utile, nel senso che avevano un'età compresa tra i 16 e i 65 anni ed erano abili al lavoro e disposti a trovare un impiego. I vagabondi, uomini e donne che erano transitati per i vari campi del paese in quel periodo erano stati 393.610. Il primo mese, 361.459 il secondo mese e 293.818 il terzo mese. Il 2% all'incirca 8.000 erano donne che vagavano per il paese, si arrangiavano sulla strada e usavano i campi del governo per i loro comodi. I tre quarti dei vagabondi, uomini e donne, si mettevano per strada in cerca di lavoro, come dimostrava una compilazione effettuata su una campionatura casuale di 932 casi registrati in 13 città: Boston, Philadelphia, Memphis, Jackson, New Orleans, Kansas City, Chicago, Minneapolis, Denver, Phoenix, Dallas, Los Angeles, Seattle. Solo il 4% dichiarava di aver preso a vagabondare per semplice desiderio di avventura. E di nuovo soltanto il 4% praticava abitualmente il vagabondaggio. Era davvero un nuovo ordine, assai diverso da quello delle vecchie, incallite sorelle della strada, che sceglievano di condurre un'esistenza randagia per amore dell'avventura e della libertà nella vita e nell'amore. «Maledetta società», sbottò il signor Nelson un giorno, dopo aver tratto alcune conclusioni da quelle cifre. Se per continuare a esistere bisogna essere ladri, delinquenti, smidollati e schiavi, dobbiamo trovare il modo di distruggerla. Chi può restarsene calmo e tranquillo e accontentarsi soltanto di votare? Persino oggi, in questo periodo di rovinosa depressione, tutto quello che emerge dal caos è che i ricchi diventano sempre più ricchi, potenti e arroganti, e la massa dei poveri diventa sempre più sottomessa e si adatta forzatamente a una condizione di vita più misera. Per come la vedo io, resta solo da sperare che i vagabondi rifiutino ciò che viene dato loro. Tu e i tipi come te siete gli unici nel nostro paese ad aver conservato il vero senso della libertà. Un'altra ricerca condotta in 22 città tra i vagabondi cui era stato pagato il viaggio verso destinazioni di loro gradimento ci rivelò che l'11% dei vagabondi soli e il 25% dei capi famiglia erano donne, dunque assai più del 2% registrato nei campi. La maggior parte di queste donne aveva un'età compresa tra i 25 e i 34 anni, mentre la maggior parte dei vagabondi maschi un'età variabile tra i 16 e i 19 anni. La stessa ricerca rivelò che il 15,73% delle donne vagabonde erano negre e l'83,27% erano bianche. Tra gli uomini i negri erano il 10,38% contro l'86,89% dei bianchi. E per quanto riguarda la nazionalità, sia tra le donne che tra gli uomini e i vagabondi di nazionalità americana erano di gran lunga più numerosi di tutti gli altri. Era possibile, mi domandai, che soltanto loro, la terza e la quarta generazione americana, avessero abbandonato ogni speranza di avere una casa tranquilla e un impiego remunerativo? Gli stranieri si aggrappavano ancora alle loro antiche speranze. Solo i nati in America cercavano nuove frontiere e vagavano inquieti per tutto il paese, a piedi, sui treni o in autostop. In marzo a New York ebbi occasione di ascoltare un discorso che Harry Hopkins, amministratore dell'assistenza pubblica, rivolse alle autorità del settore. Egli dichiarò che 34.500 persone avevano svernato in California a spese dei contribuenti. Dei vagabondi che avevano invaso la California, precisò, quasi 2.000 erano venuti dall'Illinois, altri 1.728 erano venuti fin da New York, altri 2.500 erano venuti dal Texas e circa altrettanti dall'Oklahoma. Evidentemente i fratelli e le sorelle della strada avevano bisogno di sole. Sarei stata tentata di dirgli: perché mai non avrebbero dovuto rincorrerlo su e giù per l'America? Perché mai non avrebbero dovuto scegliere il luogo più piacevole per soggiornare, visto che comunque non c'era lavoro? Libri ribelli. Libri ribelli.